abbiamo cacciato l'ispido conduttore di 25 O'Clock. Voleva trasmettere il balordo. Lo abbiamo preso a pedate nel deretano. Vai. Bello. Stanotte è 8 marzo, oggi c'è 25 O'Clock. Vi ricordiamo che siete sintonizzate e sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale. La radio che dal 1977 trasmette libera nell'etere, da condizionamenti economici, imposizioni politiche e culturali. Fuori dai linguaggi e dalle pratiche delle imposizioni patriarcali. E questo grazie a tutti, e specialmente, tutte quelle che hanno contribuito, nelle più diverse forme alla conduzione e al sostentamento della radio, la Femminile Radio. Oggi abbiamo anche imparato ad aggiungere altre declinazioni nelle parole e nella lingua. Perché il linguaggio è parte della costruzione dei rapporti e delle gerarchie che si formano nelle relazioni multiple fra le persone e fra le aggregazioni delle persone. Le parole ne sono lo specchio e il fondamento, l'origine e l'effetto. Questi rapporti sono un portato storico che vogliamo sovvertire. Per questo abbiamo noi tutto invaso e espropriato questo spazio radiofonico. Vai. Vai. Ciccio. Stanotte è 8 marzo, oggi c'è 25 O'Clock. Manco a dirlo, metteremo dischi solo di artiste e voci di donne. Perché alla fine chi conduce di solito questa trasmissione le relega spesso in un pezzetto. Le sparpaglia qua e là, lungo la playlist, per far vedere che è politically correct. Ma, su questo almeno, siamo d'accordo col sinistro profittatore WASP. Pure noi tutto e tutte ce ne sbattiamo altamente del politically correct. Ci interessa la sostanza, ci interessa che venga scardinato il più profondo e arcaico dei pregiudizi. Per questo la sigla l'abbiamo lasciata ai Sonic Youth, ma mettiamo davanti la voce di Kim Gordon, nella fattispecie sonorina e What Long Waste, tratte dal lavoro del 2006 che si chiamava Rata Reaper. Vi ricordiamo un po' di numeri e lettere utili. Il sito della radio www.ondarossa.info, dove cliccando su Sostieni troverete tutte le modalità per sottoscrivere per la radio. Che non campa d'aria. Onda Rossa @ondarossa.info per le vostre comunicazioni verso la redazione. 25 O'Clock @ondarossa.info per inviare insulti al truce profittatore WASP. E infine 0649175 per far illuminare di rosso la regia della radio più rossa che c'è. Yeah. Cassi inizia con Babanik, un artista del Mali che canta sulle note prodotte da Ballakè Sissoko e Vincent Seagal. La traccia si intitola Diabaro ed è stata pubblicata nel 2015. Babanik. Alla devi gioso con i tora la co alla devi gioso Jabaro masa devi joso konitora lako ala devi joso Thank you. religioso, Javaro Masa Devijoso, Bonitora Lago, Alla Devijoso. Diffusione che si intitolava Lost in Mali. Abbiamo ascoltato Nessa Bou. Lei è nei Nikone. Più o meno siamo intorno al 2015. 25 o'clock. Stanotte ha spodestato il carciofo che vi tormenta da più di 30 anni. Stanotte al mixer ci siamo noi. 25 o'clock. Fino ad ora siamo rimaste abbastanza tranquille. Ma tranquille non vogliamo più essere. Perciò pian piano ci stiamo arrabbiando. Pian piano però. Siete all'ascolto di 25 o'clock sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E, dal momento che abbiamo detto pian piano. Ora parte Jarbo con Cali Lamentation 3, la 14ª traccia. Tratta dal lavoro del 2008 che si chiama Makali. Yeah. shape, the lightning and thunder. I am the shower of love. Love, I am she, the mouth of lips. I am she, into this grace, into this light, I am the grass. I am sure that I dicevamo. Tranquille, non ci vogliamo più stare. Ora è il momento degli Otep e della loro frontwoman Otep Shamaya, cantante e compositrice statunitense, leader degli Otep, fin dalla formazione del gruppo musicale Nu Metal, Alternative Metal, a cui ha dato il nome, nel 2000. Si conosce poco la sua storia personale, pare comunque che sia nata a Los Angeles, nei cui sobborghi è cresciuta. Nel 2000 effettua i primi concerti nei club della sua città con gli Otep, insieme ai quali debutta nell'EPG&, pubblicato il 12 giugno 2001, incidendo in seguito 3 album ed un altro EP. Otep si dichiara lesbica e vegana. I suoi testi risultano generalmente aventi un sottofondo drammatico e rabbioso, come nel caso di una canzone contenuta nel primo album della band, che è stata etichettata dai critici maschi come un'incitazione all'odio, che può spingersi fino all'invito a commettere omicidio nei confronti di individui di sesso maschile, cioè il menosaid, come recita il titolo. Noi, più prosaicamente, ci ascoltiamo dal secondo album del 2004, House of Secrets, la più edificante, Buried Alive, sepolta viva. Thank you. Radio Onda Rossa 87 e 9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. 06 491750 è il recapito telefonico della radio. Questo è un 8 marzo di lotta. Questo è un 8 marzo di sciopero. E noi vi facciamo sentire quanta rabbia possiamo esprimere. Con le nostre voci, con i nostri corpi. Questa è sempre Onda Rossa e noi redazione di Pischelle Avvelenate, abbiamo cacciato il vecchio e arrugginito curatore di questo spazio notturno. Oh Ciccio, vai a lavare il pavimento della redazione che fa schifo. Anzi, già che ci sei, spicciace pure casa. Bene. Ci siamo ascoltate rispettivamente, dopo le grida di Otech Shamaya, da Trieste, la voce di Nicole che al centro del palco strilla per la band udinese Vivere Merda. E poi di seguito da Bologna, la voce di Lara dei Gandhi Kamikaze. Band hardcore residente al Lazzaretto di Bologna, spazio che però troppo presto venne sgomberato e raso al suolo. Mo' invece, sempre tenendo il tempo con queste ritmiche allarmate e velocissime, ci ascoltiamo il Livore dall'Aquila dal disco Allevatori di Morte, la traccia numero 5, Ignavia. Noi affermiamo che l'individuo, in uniforme, è un maiale, e non un essere umano. Oh! In rapida successione, ci siamo ascoltate la voce di Serena J.E.J.E., leader dei Mad King, una band che faceva un grunge pieno di energia, di potenza che scaturiva da questa ragazza. Le tracce che abbiamo ascoltato, dal lavoro che si intitolava Perdone la molestia, sono Speeding Bullets e Intro for Lovers in Flames. Il disco è del 2012. Ricordiamo sempre che abbiamo preso il controllo, abbiamo cacciato via il noioso titolare dello spazio che ascoltate. Gli abbiamo dato nuova linfa per questo 8 marzo di lotta. Oggi questa è 25 o'clock. Così, visto che risulta inoccupato, gli comandiamo di darsi da fare. Oh! Intellettuale dei nostri stivali! Spegni quel sorriso da ebete! Qui non scherziamo mica! Dal momento che voi maschi, non vi mettete mai seduti sulla tazza del cesso! Vai! Devi pure passare lo straccio al bagno! Che lasciate sempre un casino! Nel frattempo abbiamo preparato una traccia di un'altra ragazza sanguigna, Avery Evie Marty, che nella sua avventura, dagli anni 90, ha suonato un po' tutto, dance, rap. È stata cantante e autrice. Lei è californiana. Il suo gruppo più famoso sono i My Ruins. Dal lavoro del 2005, che si chiamava To Britain With Love and Bruises, ci ascoltiamo la nona traccia che si chiama Sick One. 25 o'clock a Radio Onda Rossa. Right, no substance, only hype. With Spotify Voclocca. Questa notte 8 marzo, che volge al 9 di marzo. E siccome questa roba ci piace, come sta andando questa sera? Mi sa che il mercoledì torniamo sempre noi altre. Basta con quella musicaccia melensa, con quella loquela da saputello del conduttore solito del mercoledì, che vi propina storie poco credibili e veritiere, sempre esagerate. Quindi per raccogliere il consenso facile di voi tutte e tutto ci spingiamo roba facile facile, eppure importante. Stiamo parlando delle Riot Girl ZZ e del grunge autentico femmina. Loro, se volete, sono risultate le più commerciali, tanto che dal movimento delle Riot Girls hanno preso le distanze, e le hanno anche prese in giro. Ma lo stile musicale e le tematiche non sono poi così distanti. Insomma, ci ascoltiamo Courtney Michelle Harrison, meglio conosciuta come Country Love, di Melissa of Dartmoor, di Samantha Maloney, e cioè delle All. Ora un altro trio, delle nostre parti, stavolta. Oggi pure loro fanno altre cose, musicali e non. Ma nel 2002 facevano uscire questa roba da pazze che si chiamava No Bass Fidelity. Laura, alla batteria e alle percussioni, e la Rhythm Machine. Elena, alla voce. E Daniela, alla chitarra e voce.

delle Mootarama abbiamo ascoltato la traccia omonima, Mootarama e poi Wild Girl. Oh, ma questo tordo del professor Fefo ancora continua a girare da queste parti. Dice che l'8 marzo sta finendo, che vuole mettersi al mixer e concludere lui la trasmissione. Che è dal 1987 che trasmette in radio. Appunto, è ora di lasciar mettere dischi alle altre, di parlare noi. Te piace di far bla bla bla ai microfoni de Radio Onda Rossa? Non ti sembra di aver ciarlato un po' troppo? Ora lo spazio se lo sono preso le giovani pischelle, e non lo so se torni. Anzi, hai visto se ci sono ancora i secchi della spazzatura piena? Ecco, valli a svuotare che fai la cosa più utile per la radio. Ecco. Al mixer lascia fare noi che siamo più brillanti, e abbiamo ancora molto da dire, dichiarare, proporre e praticare lotte. Ciò ciò, vai a portar giù la spazzatura che è meglio per tutte, va. E lasciaci fare. 06 491750, il recapito della radio dal 1977. Ondarossa.info è il sito. Ora è il momento di parlare di Evangelista. O meglio di Carla Bozulic, cantante, chitarrista, performer e videomaker, che nasce e cresce nel Greenwich Village, in una famiglia appassionata di jazz e letteratura. Si trasferisce poi a San Pedro, California. All'età di 13 anni inizia a vagabondare tra musica ed eccessi. Come Evangelista ha pubblicato 4 album. Noi ci andiamo ad ascoltare da In Animal Tongue del 2011, la settima traccia, che si intitola Die Alone. E poi da Hello, Voyager, del 2008, la terza traccia, che si chiama Lucky Lucky Luck. Coming to your door as asking for something than asking for more. I never even knew your story. I never stayed straight enough to hold your body. Love, love, I never loved you right. Love, love, you're in here tonight. Love, love, I see you clear. Love, love, now that you're in here. The coldest wind is in my bones. I wish I could tell you I was yours alone. Love, love, I never treated you right. And tonight I die alone. When I was a baby, I was sweet as can be. I had a good heart, but I had to kill it. 11 years old, my blood ran cold. By 13, I had to spill it. I'm gonna take 5 minutes thinking about it, baby. A shot out soul. During the year I was shut in the hole. I received an education in the institution about how to kick the crime problem with the angel dust solution. Woo-hoo. Woo-hoo. I'm gonna take 5 minutes thinking about it, baby. Lucky thing, I'm a lucky thing. If I touch you, you'll be lucky too. Time we terrorize the dealers downtown and the tricks with the sticky monies. Woohoo! At 21, I stopped playing with guns. I changed my ways forever. I walked on through, but my friends didn't make it. I guess I was somewhat clever. Woohoo! Lucky, lucky, lucky, if I touch you, you'll be lucky too. I'm has no respect. Of what I do, talks down to me, by me was. His me is unfair, very, very evil man. I guess you young, graduate from university. Taiga Basta. Eccoci tornate. Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza. Il telefono è 06 491 7550. Questa è Quintify Mokokaya. La musica e la voce bizzarra che avete ascoltato è l'elettropunk folle e sgarbierato di Mitsumi Kanamori, meglio conosciuta con lo pseudonimo e abbreviazione Newwood. Il disco è del 2005 e si intitola Out of Reach, Manchester's Revenge. La traccia, ma si capiva ben ascoltato, si intitola Tiger Bastard. Ora è il momento di un'altra lunga esecuzione. Entriamo in un mondo di streghe e magie. La formazione è quella di Jack Stock. In realtà è Jack Stock la voce che ascolterete, che dà il nome alla band. Del 2008 dall'omonimo album, che si chiama anch'esso Jack Stock, ci ascoltiamo il secondo brano, The Banishment. Voce da brividi. Voce da brividi, voce da brividi, voce da brividi, voce da brividi, voce da brividi, voce da brividi, voce da brividi, voce da brividi, voce da brividi, voce da brividi, voce da brividi, voce da brividi, voce da brividi, voce da brividi. Thank you. liquidato lo sciovinista che si spaccia per uno che fa radio. Lo abbiamo mandato a buttare giù ai secchioni la spazzatura. Gli abbiamo anche chiesto se ci porta su qualche birra che le abbiamo finite. Finalmente. Noi ragazze a condurre 25 o'clock. Sulle frequenze di Radio Onda Rossa, senza noie o seccature. Ora è il momento di una band californiana. E si sente. La Lumos. Da cui andiamo ad ascoltare tutte e tutto insieme, la prima e la seconda traccia del disco, Floating Features, che si intitolano appunto, Floating Features, e Cicada. We'll be right back. Identify Voclocca. Ci avviamo, sì, verso la conclusione. Anche noi ci avemo impicci. Anzi, ne abbiamo molti di più dello scansafatiche che vi molesta il mercoledì notte, ma lo abbiamo cacciato. Ah, se lo abbiamo cacciato. Anzi no, lo abbiamo messo a far cose utili. Altro che bla bla bla, a dire scempiaggini dai microfoni della radio. Ora è la volta di un vecchio. Anzi il primo disco di Cat Power. Nome che cela l'identità della cantautrice Chan Marshall. Il disco è del 94, si chiamava Dear Sir. Ci ascoltiamo la traccia, S-Nukar. Ora ce ne andiamo veramente. Il nostro saluto va a tutte le detenute, con tutte le declinazioni possibili, immaginate e immaginabili. Costrette al carcere, alla clandestinità, agli arresti domiciliari, a tutte le forme di oppressione e repressione amministrativa. Alle donne migranti, e non solo donne, trans e che hanno intrapreso qualsiasi percorso di sessualità, rinchiuso, nelle galere e nei centri di detenzione per persone immigrate. Non sappiamo, noi donne, se il becero individuo che trasmette di solito avrà il coraggio di tornare. Sicuramente non la prossima settimana. Ma, se mai, fra 2 settimane. Ha detto che deve tenere un'intervista con Roberto Falconieri. Chissà se glielo consentiremo. Noi vi lasciamo, prima, con la cantautrice californiana Dera Dorian. Col suo disco del 2015 che si chiamava The Expanding Flower Planet. La traccia è la numero 5 e si intitola Your Creator. Poi c'è la Luna Comunista. Perché l'8 marzo è la ricorrenza di una tragedia che si consumò con l'incendio di una fabbrica in cui morirono più di 100 operaie, che lì lavoravano. La sigla, Andera Comianist Moon. Moon up above, show you the love. See us soon. communist moon.